questa piccina sbocciata tra i fiori, dove si attende soltanto che giunga l'amore, come una piccola fata, tu darle vita saprai, nella casetta incantata la gioia sarà. Per il sogno e siamo sposi, s'apre la nuova vita nostra e più gioiosi, radiosi verranno i dì in una soffusa aurora di tenera dolce pace. Per il sogno e siamo sposi, tutto risplende a noi d'intorno e luminosi ci sembran persino i fiori. Sposi siamo al fin, mio dolce amore. Nostra radio un'amica fedele sarà, che con il mondo lontano riunirci potrà. La porta noi chiuderemo quando la sera verrà, presso alla radio staremo, che felicità.